Ok, Warchu, Adrena, Napal, Crazy Fox Inc. Che io mi sia fatto da solo adesso lo dirò a tutti quelli che già sanno e quelli che purtroppo no, che ho camminato 4-4 sopra il filo del rasoio tra timori, insicurezze e paure servite su un vassoio facente parte di un buffet con piatto forte il pregiudizio difficile da combattere come togliersi un vizio. La musica è stata per me un'arma perfetta nell'illusione di poter scalare ogni vetta, ecco perché io ti dico buttati qualsiasi cosa tu voglia fare ma non arrenderti, hai le capacità per farlo allora esprimiti, non badare a chi sparla e l'invidia degli ipocriti, nessuno dà una mano per andare lontano nella barca della vita, tu sei il solo capitano, abbi coraggio che hai una rotta da tracciare e abbi fede, le stelle non stanno solo a guardare. Cosa avrò mai da perdere? Questa è la mia faccia, queste le mie carte, posso stare ad attendere che qualcuno si faccia da parte, se riuscirò lo dovrò soltanto, avrò il mio posto per quanto sia difficile, perché sono qui con il cuore tra le mani e la passione quella vera dentro tutti i brani, come ho sempre fatto tiro avanti e se ritorno indietro so che siamo pari, adesso che cadendo e poi rialzandomi ho imparato ad apprezzare amici buoni e in fondo son contento perché so che dopo tutto questa vita è un parco giochi, per quanto può sembrare strano non è una cosa difficile da immaginare, prendi la tua vita in mano, vai dove ti porta il cuore, fai quello che devi fare, non sprecare le occasioni, tu ricordati che vali molto più di chi non spera, gioca le tue carte e non aver paura anche se stai vivendo una giornata nera. Cosa avrò mai da perdere? Questa è la mia faccia, queste le mie carte, posso stare ad attendere che qualcuno si faccia da parte, se riuscirò lo dovrò soltanto, avrò il mio posto per quanto sia difficile, non perché nessuno avrà per me mani da porgere. Tutto tirando su maniche, poi stretto maniche, scrivendo pagine, hanno dipinto in un quadro l'immagine di loro stessi, premendosi le anime, parole al vento, non credo, non sento, non parlo e non vedo, lo penso davvero, lo sudo sincero, mi asciugo la fronte, mi specchio in ferite, che mi ha reso forte, ho zappato e rigato di del mio terreno, mi ingegno nessuno, con troppo li femo, sul bisazio lego, la fame di sfogo, mi svuoto sul suono e lo faccio da solo, ho niente da perdere, parto da zero, non pecco di zelo, coscienza di zeno, lo rendo concreto e tu non sei da meno, basta farsi il culo e poi diventa vero. Cosa avrò mai da perdere? Questa è la mia faccia, queste le mie carte, posso stare ad attendere che qualcuno si faccia da parte, se riuscirò lo dovrò soltanto, avrò il mio posto per quanto sia difficile, non perché nessuno avrà per me mani da porgere. Questa è la mia faccia, queste le mie carte, che qualcuno si faccia da parte, avrò il mio posto per quanto sia difficile.